24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Come dicono questi qua davanti, gobbo di merda, è il sindaco che costruisce il Philadelphia, va bene così, ecco. E poi non contento Piero Fassino, il dito medio più avanti, ma già dice il sindaco gobbo di merda, ricostruirà il Philadelphia. Non so, è già materiale per Mario Adinolfi. Vabbè, io direi, avrei fatto siamo noi campioni dell'Italia, siamo noi. Ho capito, ma è sindaco Mario, è il capo dei sindaci italiani. Era più bello e più divertente, perché si metteva a zumpettare chi non salta è granata è. Sì, davanti a tutti, tu l'avresti fatto, poi saresti uscito massacrato come... Ma dai, il dito medio! Il dito medio è poco, mi sembrava poco. Ecco, lo sapevo, figurarsi. Noi sappiamo come dobbiamo rivolgerci al pubblico, no? Dobbiamo fare tutto chiaro, da tempo. Vabbè. Sono le 6:34 minuti, abbiamo iniziato così con Fassino, così subito aggressivi, dito medio al mondo, alle 6:34, queste 24 mattino. Saluto Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè è in regia, ma tra poco sarà Pordenone ormai. Oggi smetti? Oggi, da oggi è grolla libera per Peter Bescapè, e apriamo il nostro Parlamento. Anche qui c'è una protagonista che di sti giorni ritorna prepotente. Volentieri a tutti quanti. Nicole Minetti rispolverata da tutti per paragonarla a quella Paola Bacchiddu della lista Tsipras che ha mostrato il culo per prendere i voti. È libero oggi fa una polemica, pagina 13. Questo era un culo, e c'è Nicole Minetti. Questo invece della Bacchiddu è una provocazione. Vorrei chiedere subito da Aurora Lussana, lei che di donne se ne intende. Buongiorno Aurora. No, veramente mi intendo più di maschi, volevo commentare il Fassino. Comunque, no, è sempre così, le smuta andata a sinistra, ovviamente sono delle rivoluzionarie, sono delle donne impegnate, sono delle donne che hanno una coscienza e quindi autodeterminano la loro esistenza mostrando in maniera consapevole il loro corpo. Le smutandate a destra sono... Che cosa? Le smutandate a destra sono di solito accusate dalle indignate di professione. Sei partita come un ariete, sono... però poi ti sei fermata. Mi autocensuro, vedi ormai come l'autocensuro. No, di solito appunto le smutandate a destra sono vergini che si offrono al drago, no? Vittime del maschio. Citazione colta. No, posso dire una roba sì. Su Fassino? Cosa c'è su Fassino? Ditemi, chissà quanti bossi, quante dita, quanti diti medi ha fatto vedere adesso. Ma è stata una reazione genuina, spontanea, autentica. Guarda, quelli di sinistra che flirtano con la finanza, che combinano i disastri, quelli lì sono da condannare. Poi se Fassino, vabbè, a un momento una reazione un po' così da ulta, a me mi sembra vabbè, una roba ma sì. Ascolta, tu quanti se un maschio viene offeso deve anche reagire, ma dobbiamo essere tutti apatici, non reagire mai. Ma no, ma Pontida, tu chissà quante quante di quei gesti. Vi devo deludere, perché a Pontida domenica è stata veramente una giornata di sorrisi, di famiglie, popolo. Vabbè, se ti arrivava uno che diceva leghista farabutto disgraziato davanti, magari come Fassino, perdevate un po' la pazienza. Vabbè, e non so, Marione, ti appassiona almeno questa storia della Bacchiddu come la Minetti? È divertente il confronto fra zoccolette, insomma, è una cosa che è abbastanza interessante. Come zoccolette, no? Fai il bravo! Dai, ma insomma, fatto questo, Ossana quello voleva dire, ha tirato fuori i virgini, il drago, insomma, è solo un confronto fra zoccolette, insomma, non è niente di che. No, l'ha fatto per far parlare della lista per Tsipras, infatti fanno notare che ha parlato più per questo. Le zoccolette fanno parlare di sì, si sa, ma non è una cosa nuova. Quanto abbiamo parlato della Minetti? Lo mandi ancora lo spezzone del caffè? Come lì. Vedi, sono sempre argomento di conversazione. Ci offre il caffè. Ci riempiono le paginate dei giornali, ci riempiono l'orizzonte politico da vent'anni. Non era novità. Vabbè, di che vuoi parlare? Del calcio, degli stati? Tu di che avrai parlato? Questa non l'ho capita. Oggi vedo Agnelli in prima pagina del Corriere, dice: non metteremo la terza stella finché voi non arrivate alla seconda. Ma c'è ragione. Ma che vuol dire? Così almeno rimarchiamo la differenza. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Che la terza stella l'abbiamo vista 2 anni fa, nonostante il vostro complotto. Sì. Adesso certo non la mettiamo, la metteremo se mai dovremo metterla, perché purtroppo non succederà molto presto. Sì. E qualcuno arriverà alla seconda per far vedere che c'è chi ce l'ha attrezzo. Ma è chiaro che lo Juventino ha la sua maglia bianca e nera per marcare la differenza. Sì, vabbè, ma che ragionamento contorto, proprio una cretinata. Cioè, non stai attaccando Andrea Agnelli. No, Andrea, gli dici qualcosa? Facciamo la telefonata alla segreteria telefonica, dai. Sarebbe straordinario. Sono Andrea Agnelli, poi voglio vedere Adinolfi come commenta il pubblico. Di che vogliamo parlare? Di sta roba degli stadi ancora tutti i giorni. Io ancora non ho capito bene. Ieri ho visto la trasmissione televisiva in cui invocavano l'arresto di Jenny Agarogna. Sì. Io non ho capito bene qual è la interruzione di, cui interruzione di pubblico servizio. Questo lui ha fatto sì che non si interrompesse il pubblico servizio. Non ho capito, è stato un coadiutore del questore di Roma. È chiaro che adesso gli si deve appioppare una qualche cosa per. Devo dire grazie a Jenny Agarogna. Con quella maglia. Quella di tutto lì con Amsic e compagnia e il questore, tutto adesso l'arresto. Io ormai non riesco a capire. L'arresto per cosa? Forse interruzione di pubblico servizio. Ma aiutata a non interromperlo, poi il pubblico servizio quella partita di pallone. Penso di sì, non lo so. Fatto sì che si svolgesse. Ma che ne so, adesso mica faccio il magistrato. Povero Jenny Agarogna, al netto della maglietta, secondo me Jenny Agarogna è stato un onesto collaboratore dello Stato. Certo. In questa trattativa Stato Carogne. Tu Aurora, che fai? Al titolo della Padania, dov'è che ce l'ho qua? Stato Carogna oggi. Ci siete andati giù leggeri, eh? Ma sì, l'unico DASPO lo darei a Angelino Alfano. Eccolo lì. Un capoltrà che poi alla fine, voglio dire, ha collaborato, ha ragione Adinolfi, insomma. Parli come il giornale. Ormai sai che oggi il giornale a pagina 3 fa tutta una roba contro Alfano, dice l'ennesima gaffa del ministro. No, voglio rivendicare la primogenitura alla Padania di questa battaglia contro il ministro dell'interno. Perché sono svegliati dopo. No, l'unico DASPO ad Alfano, perché vabbè, dalle frontiere aperte al disastro della Coppa Italia, la responsabilità va in capo ai politici, non certo con capultrà, che vuol dire. La sua parte, poi non tendo mai a criminalizzare le curve. Se uno grida contro i napoletani qualcosa allo stadio, rischia la galera, e poi abbiamo problemi di ordine pubblico ben più gravi che quello che. Va bene così. È patetico lo Stato, per quello che lo Stato Carogna. Infatti hanno fischiato l'inno di Mameli, mi pare, no? Quindi pare una buona cosa. No, però evidentemente c'è un disagio, un rancore, uno straniamento dei cittadini che non si riconoscono più nelle istituzioni e fischiano un inno che è un simbolo di uno Stato che probabilmente è fallito. Tu dici, quindi tu l'avresti fischiata anche tu? Io non fischio gli inni degli altri paesi, sono rispettosa di tutti gli inni e di tutte le bandiere del mondo. Ma dell'Italia? Però, no, no, io sono rispettosa degli inni, delle bandiere, dei vessilli, però capisco, capisco che forse non si riconoscono più nello Stato italiano, al di là della retorica, e forse anche li hai visti impoltronati, sì. Renzi, Grasso, presidente del CONI, l'intrigura, vabbè, ma certo. VIP. Ma certo, vabbè, ma è chiaro, cioè, c'è sempre questo discredito della politica. Ma scusa, ma chi era l'unico leader in campo alla Coppa Italia? Genia Carogna. Eccola. Oh, ma ragazzi, ma state facendo un inno a Genia Carogna, ma di Nolfi, sì. Ma di qualcosa, ma su, ma dai. Io posso dire una cosa, io se ero Matteo Renzi, se ero... Sì, andavi a stringergli la mano, no, che facevo? Se ero il presidente del CONI, ai fischi, mi giravo e me ne andavo. Cioè, francamente, un gesto, sapendo tra l'altro quello che stava succedendo, sapendo... Insomma, Matteo Renzi non doveva fare il tifoso viola che resta in tribuna. Ecco, questa cosa effettivamente me la sono chiesta anch'io. Perché Matteo Renzi, no, io voglio bene, lo sanno tutti che voglio bene a Matteo, sono amico di Matteo, però davanti a quello che sapeva che stava succedendo, davanti a quello che aveva visto la trattativa, eccetera, poi partono i fischi in quella maniera, un presidente del Consiglio per dignità si gira e se ne va. No, ma tra l'altro Renzi, che è uno Renzi, che non le sbaglia queste mosse mediatiche in genere. Bravissimo, no? Bravissimo. Renzi adesso sta cercando di arrampicarsi un po' sugli specchi, cioè no, perché altrimenti lasciavo campo libero ai violenti. In realtà Renzi, se vuole fare una cosa, consiglio da amico, oggi dà una bella intervista e dice mi sono sbagliato, me ne dovevo andare, perché almeno così metto una pezza, perché oggettivamente con tutto l'Olimpico che fischia in quella maniera l'inno, tu non puoi non fare un gesto forte, cioè evidentemente non starsi in piedi o canti e poi devi andare a partita. Sì. Prendi e te ne vai, che tu debba fare una cosa del genere. Doveva fare così, e chi lo sa, per Aurora Lussana, figurati Renzi, manco deve andare allo stadio, manco deve fare niente, manco deve esistere, Matteo Renzi. Però è passato dalla partita del cuore alla partita della vergogna, sai che doveva giocare. Comunque, per temperare, perché io oggi a Cinofrana di Nolfi ho Matteo Salvini ospite. Ah, insomma, attenzione, Matteo Salvini, cara Aurora Lussana, alle 8 su Radio Yes, l'hai segnalato, hai segnalato insieme agli appuntamenti della Chieng sulla Padania. No, non li mettete più gli appuntamenti della Chieng. Vedi che Renzi è molto intelligente, lo capisci da questo, la Chieng infatti l'ha fatta fuori in 448 perché ha capito che sono più danni che altro. Guarda che candidata, ma non perde un colpo Aurora Lussana per pam tirare una mazzata, sembri un dito medio vivente tu. Non è bello dire alla donna, ma no, dai, perché per l'aggressività, su Aurora, dai. L'hai presa sono bene. Sono donne che sono un dito, ti azzanda la giugulare, insomma, che deve. Non trova marito, è sposata la Lussana, no? E non lo so, no. Però è fidanzata. Se fai questa pubblicità non trova marito. Senti, ma Aurora... Non è come la Boschi che c'ha bisogno... No, però trovare... Aurora, scusa, adesso qua devi risolvere un equivoco, non per farci i fatti tuoi, tanto non ci ascolta nessuno, ma perché in redazione si dice che sei fidanzata con un parlamentare della Lega. Sì, ma no, ma è ufficiale, lo sanno tutti. Sì, ma c'è un dubbio, cioè non sapevamo bene chi, ma lo possiamo, no, non si può dire. No, beh, ma è pubblico, lo sanno tutti, è un fidanzamento pubblico. No, ho capito, ma infatti. Da anni, no? Nel senso, e allora, dichiaralo. Sì, ovviamente della Lega. Sì, vabbè, no, è chiaro. Ma chi è? Perché c'è il dubbio su chi sia, no? C'è il dubbio, non lo so io, questo, non che non si sappia che... E Comasco, vi do qualche indicazione. Ah, va bene, allora ho capito, sì, è quello che pensavo io. Infatti. Va bene. Andiamo alle informazioni sul traffico e poi c'è la segreteria più amata da Mario Adinolfi. 24 mattino. In sostanza, dico, noi abbiamo un pregiudicato che ha governato 20 anni e non ha fatto un cazzo, niente, ha ingrassato soltanto i suoi figli. Adesso addirittura sta parlando di non solo di ritornare al potere con la faccia tosta che soltanto lui ha, ma addirittura sta ironizzando che vuol fare il padre della patria. Ma il manicomio, per esempio, non mi è venuto mai in mente per personaggi come questi. A 59 anni mi sono reso conto che purtroppo l'Italia non esiste più. Bisogna dar ragione purtroppo a Salvini e non tanto purtroppo, ma ha ragione a Grillo. L'Italia non esiste più. L'Italia vista da sabato sera non esiste più. E se c'è qualcuno che non se ne rende conto, purtroppo è rimasto indietro. Ciao Milan, stavo solo pensando a quello che è successo a Roma. Per ora di telefonate, per quello che ho sentito, ne sono partite tante. Ora voglio vedere quanta gente si costerna, si indigna, si impegna e poi getta la spugna con gran dignità. Noi italiani ce la raccontiamo che siamo un paese di poeti, santi e navigatori. E questo come lo rappresentiamo nel mondo? Con Schettino, De Santis e Jenny La Carogna. Ma dai! Chiamavo a proposito del culo di questa sarda che ha apparso per il partito di Sibra. È meglio vedere quei culi che anziché le facce di culo dei politici. Ecco, beh, questa di Nolfi era proprio un assist, come dire, era talmente scontata, no? Meglio. Ha tratto dalle zoccolette, ecco, meglio. C'è niente da fare. Meglio delle facce da. Comunque abbiamo un grande paese, diciamoci la verità. Ma dove, a quale paese del mondo è divertente? A me dispiace oggi la segreteria era un po' depressa, no? Ah, l'Italia, oh, che brutto, ah, l'Italia, oggi abbiamo un grandissimo paese. È, ma perché? Ma con Jenny La Carogna, ma dai, con Schettino, ma viva Jenny La Carogna, ma vi pensate di vivere in Belgio? Beh, è stato un pacificatore di animi Jenny La Carogna, dobbiamo dirgli grazie. Cittadini del Belgio, Mario Adinolfi vi ha insultato, ma vi ha denigrato in Belgio, questa è la noia mortale. Cittadini del Belgio, attaccatelo, le chiappe al vento, era un carnevale continuo. Questa della lista Sipra, questo cerca la lista Sipra, questo per dirti come l'hai informato sulla lista, la Tsipras è greco, caro ascoltatore. Vabbè, allora vogliamo. C'è un problema ormonale però nel paese, scusate. C'è un problema ormonale? Vabbè, vedi. Sì, cioè, ci sono questi picchi ormonali, cioè basta vedere la foto della candidata che si sono eccitati tutti, oh signore, dai, adesso. Effettivamente, no, dai. Anche te, Anche te, io? No, ti vedo bello caldo. Ma su tutti i giornali, apri oggi Libero, titola in prima pagina, Chiappetta Rossa la trionferà. Ho capito, sono gli ormoni. Saranno gli ormoni impazziti, però che devo fare? Cioè, questo è su tutti i giornali, che devi fare? Di che vuoi parlare tu, Aurora? Dai, scegli tu allora. L'argomento? Vorrei dirvi che fra poche ore in Cassazione la Lega deposita, dopo il grande successo dei 5 referendum, insomma siamo quasi a quota 500.000 firme per abrogare la Fornero, la Merlin, di cui uno sulla prostituzione per l'appunto. È fondamentale regolamentarla e tassarla per chi decide liberamente di prostituirsi, ovviamente, per combattere la vergogna del racket. E che succede? Poi, dopo questo boom qui sui 5 referendum, la Lega non fa solo gli slogan, fra poche ore alle 9 depositiamo in Cassazione il sesto quesito referendario per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina cancellata da Tsipras. Questo sì che ci voleva. Dai grillini che sono filo immigrazionisti. Ma dai Aurora, ma il reato di immigrazione clandestina, ma non è stato mai perseguito nessuna persona, ma cosa vai a dirgli a uno? Per la direttiva rimpatri, se no ma rimpatri, uno che arriva con gli stracci dall'Egitto che scappa, Milan, ti posso fare una domanda? Una sera quando vai a casa, la tua porta di casa la chiudi o la lascia aperta? Certo che la chiudo. E allora, sei un po' da solo. Eccala. tu Marione, allora, Marione, che fai la tua porta? Io la tengo aperta intanto. Sì, sì. Allora va bene. Tutti dentro, tutti la Ridolfi, tutti. Sono stato svaligiato dagli zingari più di una volta perché non si dice zingari. Sei un razzista, sei un razzista, no. Ridolfi, come fai a sapere che erano zingari? Ma dai, lo so. Ma no, no. Strada, figurati, cioè, è che so. Ah, li hai incontrati che rivendevano, ti rivendevano la tua roba? Scendevano dalle scale mentre io le salivo, insomma. Ah, ecco. Con la roba mia in mano, insomma. Io non sono agilissimo, loro sono un po' più agili di me. Mi hanno fregato. Però nonostante questo, questo vizio della porta aperta, in effetti, come retroterra australiano, io sono australiano di passaporto, no? In Australia non si chiudono le porte, per cui, insomma. Che vuol dire essere australiano di passaporto? Mia mamma è australiana, io quindi ho il passaporto australiano e ho vissuto in Australia dove... Ma c'è il doppio passaporto, italiano australiano? Hai capito che roba di Norfi. Che bello. Cioè tu potresti andare a vivere in Australia, non potrei ti fanno... Potrei andare a vivere in Australia, anzi da una chicca, se vai su YouTube trovi anche una canzone che ho interpretato che si intitola Australia, quindi è una cosa del vabbè, ma, non, cioè, non, ma, non la beccate ma, mai, insomma, però... No, no, no, la prossima volta, la prossima volta ti sei fottuto da solo. L'Australia è un terra meraviglioso, è un altro di meraviglioso e noiosissimo. Non succede mai niente. Ecco, infatti, tipo il Belgio, tutti cittadini del Belgio. Vabbè, qua Aurora, abbiamo un minuto, dobbiamo dare, c'è chi mi chiede la ricetta di Aurora. No, ma no, no, una cosa semplice, sto facendo lessare un po' di asparagi che erano in offerta e poi faccio una zuppa di asparagi per riscaldare stasera. Oh, mamma mia, che mestizia. Perché a Pontida ho mangiato troppe costine, troppe casoncelle, mi devo un po'. Ecco, bisogna un attimo perdere quei due etti, insomma. Vabbè, però mi aspettavo a Pontida, ci aspetta. Tu sei andato, Marione, a Pontida? Ma io non sono andato, c'avevo da presentare Voglio la mamma, anzi oggi sul Corriere della Sera ne parlano. C'è un articolo sul Corriere, a pagina 21 del Corriere della Sera parlano del mio ultimo libro. Ma ne abbiamo parlato anche noi, come ben sai. Hai aperto tu. Ho aperto io. Vabbè, allora alle 8, visto che Marione di Nolfi non è andata a Pontida, ha portato Pontida a Radio Yes, che è più semplice. E quindi comunque, allora, cara Aurora, hai mentito. Hai mentito, perché noi abbiamo le nostre foto. Il tuo fidanzato è Canturino. Non è di Como. È verissimo. Sei una farabutta. La provincia è Como, scusatemi. È Canturino. A Cantù ci tengono a dirsi. Stai attenta che a noi non sfugge nulla. Intanto buona giornata, ovviamente. Va Aurora bene. Lussana, direttore della Padania, Maria Di Nolfi, grazie. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Allora, alle 7:18 minuti, eccoci cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali con voi anche oggi. E vi ricordo che torneremo a parlare di calcio, di questo calcio, della tifoseria. Avremo ospite oggi un esperto della Polizia di Stato che da anni studia questi fenomeni anche in giro per il mondo. Si tratta di Maurizio Marinelli, che è direttore del Centro Studi di Sicurezza Pubblica della Polizia, come avremo ospite anche Marisa Grasso, la vedova dell'ispettore Filippo Raciti, ucciso durante una partita a Catania o negli scontri nei dintorni dello stadio. Ma non solo di questo parleremo, avremo ospite alle 8:45 anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, il Parlamento siciliano, perché udite, la polemica è finita sui giornali. Totò Cuffaro, che è in carcere, sta scontando il carcere per associazione esterna alla mafia, riceve regolarmente 6.000 euro al mese di pensione, di vitalizio, come ex presidente della Regione Sicilia. E com'è possibile questa cosa? Ne parleremo alle 8:45 con il presidente del Parlamento siciliano. Ora andiamo a leggere i giornali. questo martedì 6 maggio. Intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre così: più fiducia dai capitali esteri e la relazione della Consob con il presidente Vegas che dice banche italiane solide, ma gli stress test potrebbero penalizzarle. Sull'economia, la crescita lenta dell'Italia e anche l'apertura del Corriere della Sera. Il rapporto europeo, bene le riforme, attenti a debito e occupazione. Poi ovviamente si parla ancora di calcio. Renzi, sicurezza, paghino i club. Questo è il titolo di prima pagina del Messaggero. Mentre Repubblica, Napolitana e club, rompete i legami con le curve ultra. La Stampa, nelle carte della FIGC la trattativa con gli ultra. Il Fatto Quotidiano, Genia Carogna, prima trattano, poi lo indagano. Il Secolo XIX, Napolitana e club, rompete con gli ultra. Mentre l'Unità ultra il rigore di Napolitano. Poi ci sono le aperture di Libero e Il Giornale, si dedicano alla sinistra e alle alcuni atteggiamenti della sinistra, a partire dalla foto di Paola Bacchiddu, responsabile della comunicazione della lista per Tsipras, che si è mostrata in bikini. La sinistra si gioca il sedere, chiappetta rossa la trionferà. Questo è il titolo di Libero, in prima pagina, che mette anche il gesto di Fassino, però è Fassino che ha mostrato il dito medio a dei provocatori. E così anche il Giornale, sinistra fuori di testa, altro che nuovo corso. C'è la vicenda della foto di Tsipras, c'è Fassino che fa il teppista col dito medio, ma c'è anche Pina Picerno in prima pagina che dice Berlusconi ha detto che supererà il 25%, sono i deliri di un anziano signore. E il titolo sul Giornale è l'ultima della Picerno per insultare Berlusconi dà dei rinco agli anziani. Queste alcune delle aperture, vedremo anche gli altri giornali. Intanto voglio subito partire proprio dai tanti articoli dedicati ancora alla vicenda dell'Olimpico. Ci sono alcuni sviluppi, come avete sentito c'è la polemica sulle società che dovrebbero pagare parte della sicurezza negli stadi. Questo avviene per esempio anche in Inghilterra e questo ha chiesto il presidente del Consiglio Matteo Renzi. C'è Napolitano, capo dello Stato, che dice non si tratta coi violenti e poi soprattutto le società rompano i rapporti con queste persone. E questa è un'altra questione che viene negata dalle società, ma è la cosa più evidente. Chiunque frequenti gli stadi e chiunque segua un po' il calcio, che ci sono rapporti con queste frange del tifo organizzato e quindi in queste frange del tifo ci sono anche i violenti. È abbastanza chiaro che ci siano rapporti tra loro e le società. Certo, non è che si telefonano, si mandano i fax e si danno appuntamento in pieno centro nelle città, però è ovvio e lo sanno tutti. E poi c'è intanto la cronaca, a partire dal Messaggero a pagina 4, il test conferma ha sparato De Santis, adesso è caccia al comando ultra. Nell'articolo di Valentina Errante e Paola Vuolo si racconta che proprio il test dello stab, cioè quello del il guanto di paraffina, ha confermato, è stato proprio Daniele De Santis a sparare a Ciro Esposito. E mentre il PM Antonio Di Maio ha chiesto la convalida dei 4 arresti, De Santis per tentato omicidio, Esposito, cioè la vittima della sparatoria, e altri 2 tifosi del Napoli per rissa. Ma intanto si cercano anche gli altri violenti, napoletani e romanisti, perché la Digos è convinta che De Santis non abbia agito da solo. Si parla sempre più di alcuni complici, o comunque di qualcuno che aveva fatto un'aggressione organizzata. Tra l'altro anche il Fatto Quotidiano si dedica proprio a De Santis, a pagina 4, Marco Lillo, Gastone, il mito dei samurai e un papà citato sulla Treccani. Addirittura direte voi, ebbene sì, il papà di colui che ha sparato o che avrebbe sparato, insomma poi va tutto verificato, ma pare proprio sia così, non vuole parlare coi giornalisti, racconta il Fatto, si chiama Daniele De Santis, colui che ha sparato, il padre si chiama Ivo De Santis ed è una persona nota, tanto da finire nella Treccani, perché grazie a lui è stato introdotto in Italia il Wado Ryu, cioè la moderna concezione di gara sportiva del karate. C'è una citazione sulla Treccani proprio perché il fondatore Otsuka affidò al suo allievo Toyama il compito di insegnare l'arte in Italia e Toyuma, e prosegue sempre la Treccani, insegnò a Roma e si occupò della preparazione agonistica degli atleti della scuola di Ivo De Santis, il padre di Daniele De Santis. L'unica cosa che dice ai giornalisti: mi auguro con tutto il cuore che quel ragazzo di Napoli si riprenda al più presto. Ma certo, ci sono le polemiche, per esempio anche sulla cosiddetta trattativa negata fino all'inverosimile da tutti, e che però, come racconta La Stampa con Guglielmo Buccheri a pagina 3, è una trattativa che addirittura sarebbe finita già nelle carte degli 007 del pallone, cioè coloro che lavorano alla Procura federale, che riguarda tutte le vicende del calcio e che poi fanno relazioni al giudice sportivo Tosel. Ebbene, secondo La Stampa, e questo almeno è il titolo, nelle carte degli 007 del pallone tutti i sì concessi agli ultra. Ci sono atti ufficiali che raccontano la notte degli spari sul calcio, carte che mettono ordine al cortocircuito dentro lo stadio olimpico. Non è e non può essere la magistratura ordinaria ad aver tirato le proprie conclusioni. Lo hanno fatto gli 007 del pallone, gli uomini inviati a bordo campo dalla procura della Federcalcio, che consegneranno forse oggi al giudice sportivo i frammenti del colloquio tra il capo ultra del Napoli Genia Carogna e il capitano azzurro Marek Hamšík. E secondo questi colloqui il Napoli potrebbe rischiare anche la chiusura del San Paolo. Perché delle due o tre pagine del rapporto degli 007 della FIGC potrebbe emergere la minaccia di chi, cioè l'ultra, pretende di parlare col suo capitano per cancellare dalle mosse della curva gesti tali da impedire lo svolgimento della partita fin dall'inizio. Secondo Il Giorno, se ancora più espliciti, a dire Genia Carogna ha detto: voglio parlare con il nostro capitano, altrimenti la partita non inizia. Ecco, questo è il senso della trattativa, come dire, della minaccia, tanto che Genia Carogna rischia l'accusa di interruzione di pubblico servizio. Questo raccontano almeno i giornali. Vabbè, Repubblica intervista poi un tifoso che a pagina 4 racconta sotto anonimato cosa scatta nella mente dell'ultra, quella sorta di adrenalina, la descrive così: ti sale una cosa qua e preme con il dito all'altezza dello sterno, poi la fa scorrere fino alla gola. In quel momento è una specie di scarica che parte dalle gambe, divampa nella testa. A quel punto parti e basta. La tua storia è partire e fare danni. Hai l'asta della bandiera, che è una mazza di legno, di ferro, ma hai anche bombe carta, fumogeni, trovi quello che c'è, pietre, bottiglie, pezzi di metallo, cartelli stradali, materiale da cantiere, e racconta così l'inizio della vera e propria battaglia cittadina in questo racconto che viene affidato a Paolo Berizzi da Bergamo su Repubblica a pagina 4. Ce n'è anche per la polemica politica. Nella bufera finisce ancora una volta Alfano per aver detto il Daspo a vita, ma tutti hanno fatto notare che il Daspo a vita già c'è, se si vuole applicare, e che non si applica mai. Il Giornale è molto duro, vabbè, ma qui c'entra anche la questione politica. Sapete, Alfano poi ha litigato con Berlusconi, di recente anche con Marina Berlusconi. Insomma, comunque a pagina 3 Stefano Filippi fa un lungo articolo sul Giornale attaccando Alfano. Sono troppe le gaffe di Alfano, serve un ministro dell'interno. Questo è il titolo del Giornale, che raggruppa un po' gli eventi, la Shalabayeva, ricordate, il caso appunto questo dell'Olimpico, ma anche quando andò in TV una mattina dicendo: stiamo cercando il killer di tre bambini e a Lecco e lo consegneremo alla giustizia, ma da due ore si sapeva che in realtà era stata la madre, in un gesto di follia, ad uccidere i propri figli. Comunque, polemiche ce ne sono, ce ne saranno, ne parleremo alle 8:15, mentre le polemiche sono anche sul sindaco Fassino, che è anche il capo dei sindaci italiani, presidente dell'ANCI. Che ha combinato Fassino? La cosa più così che a me un pochino ha disturbato e che fassino non tanto il gesto del dito medio, ma che quando gli hanno detto ma lei ha fatto il gesto del dito medio, no, io, ma no, io questi gesti mai. Poi è comparso un video e allora ecco che fassino è qui a giustificarsi una serie di interviste. Beh, era davanti ai tifosi del Torino per promettere anche nel giorno della commemorazione di Superga la rinascita dello stadio Filadelfia, solo che lui è uno juventino, o come si è definito lui stesso, gobbo di merda, visto che ha risposto così agli insulti, io gobbo di merda però vi ricostruirò lo stadio, ma poi la situazione è degenerata, insulti. Fassino dice in una serie di interviste oggi a Repubblica, La Stampa, Il Corriere, mi hanno insultato, mi hanno tirato pietre, no pietre no, mi hanno tirato ghiaia e lattine di birra. Eccolo qui per esempio intervistato dalla Stampa: non chiedo scusa a nessuno, a chi mi chiedeva conto dell'accaduto ho solo negato la rappresentazione di un gesto di offesa nei confronti dei tifosi granata verso i quali non ho fatto alcunché. Quel gesto di offesa era nei confronti di chi mi stava aggredendo, un gruppetto di persone. Mi hanno detto del gobbo e va bene, poi mi hanno lanciato appunto ghiaia e lattine. Non si può accettare che chi è aggredito sia a sua volta aggredito e all'aggressore non venga detto nulla. Ormai siamo continuamente di fronte a, come dire, a manifestazioni di aggressività non solo nello sport ma ovunque. E anche a Repubblica, intervistato da Diego Longhin, dice: io non chiedo scusa a chi mi ha insultato, sono stato offeso, è stata offesa la mia famiglia, non ripeto quello che mi è stato detto, per carità di patria, mi hanno lanciato addosso ghiaia, lattine di birra. E, insomma, un Fassino che dice non chiede scusa assolutamente. Anche sul Corriere, intervistato da Marco Imarisio, arriva un momento, dice, in cui si deve reagire. Ecco, la tesi del porgere l'altra guancia a ogni costo mi sembra opinabile. Io rivendico il mio diritto a non farlo e a un certo punto bisogna dire anche basta. Ecco, Fassino, basta al porgere l'altra guancia. Bisogna a un certo punto reagire. Così parlò il sindaco di Torino, che ha esposto il dito medio a chi lo stava aggredendo verbalmente. Andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo con le altre notizie dai giornali, la politica, ma anche tante chicche qua e là. State con noi. Alessandro Milan, il mandrillone dell'informazione. Caro ascoltatore, sono le 7:36, eccoci qua a continuare a leggere i giornali. Io ve l'avevo detto già da un po' di tempo che la campagna elettorale sarebbe stata un qualcosa come tutte le campagne elettorali, con insulti, con urla. Sciacallo, gufo, Renzi è come Eugenia Carogna, disgraziati, Robespierre come Hitler, volano queste accuse qui, ne ho raccolte alcune che mi sono venute in mente negli ultimi giorni, contenuti pochi ma molte così, molti slogan, almeno a leggere i giornali, quelli che finiscono sui giornali sono questi. Allora, ieri il premier Renzi, per esempio, riunendo il partito, come racconta Emilia Patta, pagina 9 del Sole 24 Ore, ha detto: siamo ormai al derby tra la rabbia e la speranza, tra chi scommette sul fallimento dell'Italia e chi pensa di potercela fare. Prima c'erano falchi e colombe. Ricordate come si dividevano spesso nel centrodestra, venivano descritti dai giornali partiti. Ora ci sono i gufi e gli sciacalli. E va da sé, scrive il Sole, che i gufi sono quelli che vogliono fermare il cambiamento, mentre lo sciacallo della politica è per Renzi soprattutto Beppe Grillo, che vuole le macerie del paese. Tanto che Renzi ha riunito la direzione del suo partito, aprendo di fatto la campagna per le europee, disegnando uno scenario in cui c'è un noi e un loro. Noi siamo il ragionamento, loro l'invettiva, loro l'insulto, noi il dialogo, loro lo sfascio, noi la proposta, loro contro l'Italia, noi per un'Italia che guidi l'Europa. La differenza è tra chi urla e grida e chi prova a cambiare davvero. Poi, a proposito di cambiamenti, ha incontrato anche una serie di costituzionalisti e ha ribadito Renzi: bisogna avere il coraggio di dire che il modello istituzionale e costituzionale dell'Italia ha bisogno di modifiche, e sostenerlo non è né autoritarismo né esercizio violento della cosa pubblica. E in ogni caso, insomma, l'attacco soprattutto a Grillo è quello che prende maggior titolo del giornale, anche per il Corriere della Sera, pagina 5, Renzi attacca Grillo, sciacallo, e chiama il PD alla mobilitazione. E dall'altra parte c'è sempre la questione che tiene campo in centro-destra di Marina Berlusconi, candidarla oppure no. Si presta a questo gioco anche il consigliere di Berlusconi, Toti, Giovanni Toti, che viene intervistato dal Corriere della Sera Paola Di Caro a pagina 9, dopo le urne riunire tutti i moderati e promuove Marina, sarebbe un ottimo candidato. A mio avviso Marina sarebbe un ottimo candidato, dice al Corriere Giovanni Toti, e chi si scandalizza finge di dimenticarsi che grandi democrazie hanno avuto grandi dinastie politiche. I Kennedy, i Bush, ma anche i Gandhi e il Le Pen. Poi sarà lei a scegliere che fare, non è giusto tirarla per la giacca. E alla domanda, ma come verrebbe eletta? Per acclamazione? In un congresso con le primarie? Mi permetta, ma è un dibattito ozioso, risponde Toti. Se Berlusconi indicherà Marina o chiunque altro, il partito lo seguirà. Perché Forza Italia è il partito più anarchico del mondo, ma i suoi dirigenti hanno sempre seguito e sempre seguiranno le indicazioni di un capo carismatico quale Berlusconi. Quindi niente primarie, non è un problema davvero. Qualcuno pensa che se ci fossero primarie Marina o un altro candidato indicato da Berlusconi non le vincerebbe a man bassa? E quindi dice Toti lanciare ancora questa idea di Marina Berlusconi. Si discute anche sempre del Senato, siamo alla trattativa finale, questo è il titolo del Corriere della Sera. Per la verità, settimana scorsa, io ricordo benissimo il titolo, lunedì scorso, è la settimana decisiva per la riforma al Senato. Adesso siamo alla trattativa finale ed è passata già la settimana decisiva di cui poco fa. Oggi è il titolo del Corriere della Sera, la proposta Boschi passa in commissione, le resistenze restano, insomma dovete essere interessati di questi dibattiti parlamentari sul cambiamento. Ne è interessato certamente Pierluigi Bersani, che viene intervistato in un colloquio con la stampa con Carlo Bertini a pagina 9, dice: se qualcuno mi scrive al partito dei gufi o dice che voglio boicottare le riforme o mettermi di traverso, lo sfido a duello, sarebbe un insulto sanguinoso. E così Bersani dunque rivendica il diritto di dibattere sulle riforme. No a referendum sul governo, altrimenti i voti scappano. Tra l'altro Bersani che annuncia torno in campagna elettorale tra i militanti, e scrive anche Carlo Bertini, avverte il premier. Mi sento benissimo, dice Bersani, del resto la forma sembra smagliante, anche se l'operazione alla testa ha lasciato un segno coperto dalla bronzatura delle sue passeggiate in collina, una lunga cicatrice sul capo, ma si mostra combattivo. Con rapporti di forza che abbiamo in Parlamento e nel Paese possiamo fare le riforme. Sul Senato si sta perdendo tempo in questione di puntiglio, siamo a un passo da una soluzione, bisognerebbe fare presto e bene, mentre l'Italicum si corregge sulle soglie di accesso, sui parlamentari nominati, e Berlusconi non gli va lasciata l'ultima parola. Questo dice Bersani. Vabbè, invece Dell'Utri, che fine ha fatto Dell'Utri? È sempre là, in Libano. È sempre là in Libano, ma fa sapere i giornali, il Messaggero si dedica con mezza pagina, pagina 8, Dell'Utri, Orlando, il ministro Orlando, ha richiesto l'estradizione dal Libano, e dunque estradizione partita. A proposito di estradati, voglio salutare Mauro Meazza del Sole 20... Buongiorno, non ti è ancora passata questa fase Hilare, vedo. No, è passata. Dai, non bisogna umiliarvi più di tanto. Su. No, ma poi è giusto dare anche dei conforti, delle consolazioni a chi è più in difficoltà, classifica. Senti, volevo informarti che con il Sole 24 Ore oggi trovi anche il dizionario di questa settimana, è dedicato alle polizze, quindi le parole che servono per capire come parlano le assicurazioni, come parlano le polizze. Insomma, talvolta il linguaggio non è dei più così, di più affrontabili, sì. Noi abbiamo pensato a questo dizionario. Poi importante il POS, perché allora c'è stata una decisione del TAR e ha detto che insomma da giugno si parte con queste possibilità di pagare anche gli studi professionali con il POS per pagamenti sopra i 30 euro. Così ha deciso il TAR, adesso tutta la vicenda è un po' articolata, però sulle pagine di Norme e Tributi naturalmente trovi certo, anche tutti i dettagli e anche gli effetti. POS, TAR. POS nel senso di bancomat, quindi certo. Si può prendere il bancomat e pagare anche con il bancomat. C'era stato un po' di perplessità da parte dei professionisti, ma il TAR ha tagliato corto. Cosa vuoi fare con gli 82 euro che avrai? Perché 82? Sempre? Ah, cioè 82 euro già li avevi, 80 ti arrivano a maggio. No, a me non quindi, arrivano, ma insomma, come no, è giusto che non sia. Ti arrivano perché guadagni una cifra talmente mostruosa che sei fuori sì, da. Sì, sì. Vorrei darli. Non ti arrivano perché il direttore personale potrebbe essere interista. Potrebbe avere tagliate, esatto, fare una compensazione. Gli 80 euro ma arrivano, ma vengono inglobati dal direttore del personale. In questo potrebbe anche accadere. È una prima di volevo dirti che. Simone Filippetti nelle pagine di Finanza parla delle 10 IPO, insomma società che andranno in borsa, che sono attese in borsa entro il 2014, quindi c'è una segnalazione, sono i tuoi 82 euro se tu volessi per esempio puntare sulle azioni di società che vanno a quotarsi, ecco puoi farlo. Magari prima ti informi, come è sempre bene fare. Certo. Tra l'altro, a proposito di 80 euro, sai che noi abbiamo sempre sul sito le domande dei nostri lettori con anche le risposte degli esperti. Ah, chiaro, è arrivata la domanda: posso spenderli per i fagiolini? Quanto costano i fagiolini? No, non credo. Non posso ancora verificare se è arrivata nella notte, però non credo. www.elsole24.com/, che è quella cosa lì strana, quella sbarretta, insomma, bonus IRPEF. E naturalmente poi abbiamo anche la guida al bonus nelle pagine di Norme e Tributi di oggi. Perfetto. Poi ti volevo dire in ultimissima cosa, lo sai che la Cassazione ha condannato un medico a mantenere il figlio avuto da una coppia perché era stato impreciso nella prescrizione di un medicinale? Hanno ritenuto anticoncezionale. Insomma, ha sbagliato la prescrizione della pillola e adesso deve mantenere il bambino. Interessante, è un dibattito. Ma insomma, potrebbe aprire dei profili di responsabilità professionale inediti, diciamo comunque. In questo dico interessante, nel senso che è una decisione molto controversa. Sì, un po' particolare, però trovi tutti i particolari, indovina dove? Nelle pagine di Norme e Tributi, dove trovi anche la tua pagina preferita sul condominio, oggi martedì la pagina sul condominio. Ah beh, certo. E una tua bellissima foto, lo dico per tutte le ascoltatrici, soprattutto a pagina 29 del Sole 24 Ore di oggi. E questa. Con questo mi pare che abbiamo completato una rassegna. Più o meno abbiamo letto tutto il Sole, quindi abbastanza. No, abbiamo dato solo alcune segnalazioni. Vedo che è un piacere che tu hai recuperato l'uso della parola e non quella risata nervosa che ti aveva contraddistinto la giornata di ieri. Credo che sia il mio momento. Assolutamente. Giusto? Oramai mi salutano anche per strada con questo saluto. Io ne sono molto contento. E allora, traffico. Oh, Milan! Sì, il numero uno. Ciao! Ciao anche a te, caro ascoltatore. Allora, vi ricordo che per quel che riguarda la politica c'è anche tutta la polemica che rimane, soprattutto nei giornali come Libero la mette in prima pagina, la polemica per la responsabile comunicazione della lista Tsipras che ha mostrato la foto, ormai diventata celebre, no? Paola Bacchiddu ha mostrato la foto di sé in costume da bagno, ripresa da dietro. E il titolo di Libero è "Chiappetta rossa la trionferà, la sinistra si gioca il sedere". Questa è addirittura in prima pagina. In ogni caso c'è anche la polemica, perché ma come, se si smutandano a destra erano polemiche, se si smutandano a sinistra va tutto bene, tanto che Libero mette a pagina 3 le foto di Nicole Minetti e Paola Bacchiddu. I titoli sono: questo era un culo di Nicole Minetti, questo di Paola Bacchiddu invece è una provocazione. C'è anche spazio per questo. C'è anche riguardo alla cronaca varie notizie. Prima fra tutti, certamente, torna la paura a Firenze. Tutti i giornali dedicano almeno due pagine di cronaca a questo terribile omicidio. È stata ritrovata una giovane donna rumena, Andrea Cristina Zanfir, 26 anni, nei pressi di un cimitero sotto un cavalcavia dell'autostrada è stata uccisa, è stata trovata nuda, legata con nastro adesivo, quasi in una forma di rudimentale crocifissione, era stata anche violentata, abbandonata forse mentre era ancora viva, cercava probabilmente e disperatamente di liberarsi con le ultime forze che le erano rimaste, ma soprattutto al di là della brutalità dell'omicidio, non è il primo caso di corpo di donna rinvenuta nella stessa zona, tanto che appunto il timore è quello del ritorno del mostro o comunque di un maniaco seriale. Seviziata e crocifissa, incubo maniaco, titola per esempio Repubblica, pagina 20. Il Messaggero racconta Cristina e le altre: in 8 anni il maniaco ha colpito 5 volte. Tra l'altro c'è anche una donna invece che nel 2013 probabilmente era stata vittima, chissà, della stessa persona, era riuscita a salvarsi. E dice adesso, è stata ovviamente rintracciata, dice era un italiano con un'auto bianca. Anche il Secolo XIX, stuprata e poi crocifissa a Firenze, torna al mostro, ma certamente i giornali dedicano molte molte pagine a quell'episodio di cronaca, questo episodio di cronaca terribile che potrebbe davvero suscitare anche nuovi timori, nuove paure per il rispuntare di un maniaco seriale, un serial killer a Firenze. Mentre ci sono anche delle polemiche per la serie TV Gomorra, che parte oggi su Sky e che racconta il Fatto Quotidiano, peraltro riprendendo una vicenda che lo stesso Fatto Quotidiano aveva raccontato qualche tempo fa. La serie TV Gomorra sotto inchiesta la sera della prima. Antonio Massari racconta come la Procura di Napoli abbia aperto un fascicolo con indagini mirate a verificare i rapporti con il clan Gallo, proprietario della villa che ha ospitato le riprese della fiction. Racconta il Fatto a pagina 11: rapporti tra la produzione e i clan Gomorra, la serie in onda questa sera sotto inchiesta, e l'indagine ruota attorno alla casa del boss protagonista della serie, Pietro Savastano, che nella realtà appartiene a un vero boss di Torre Annunziata. Parliamo di Francesco Gallo, classe 76, arrestato proprio mentre la truppa registrava le scene. Per la casa di Gallo, la produzione di Gomorra ha firmato un vero e proprio contratto da 30.000 euro per 6 mesi, poi finito nelle mani dell'amministrazione giudiziaria. Dunque, polemiche ancora prima di iniziare. È finito invece, ancora prima di iniziare, il matrimonio di Valeria Marini. Oggi ci sono tutti i dettagli sul Corriere. La stessa Valeria Marini racconta del Vira Serra. Dai, dite che non siete interessati, invece siete tutti curiosi. A pagina 23 dice Valeria Marini: il mio matrimonio lo farò annullare dalla Sacra Rota. Pensi, dice la giornalista, che in un anno non è neanche stato consumato il matrimonio. È incredibile, vero? Dice Valeria Marini, e la giornalista in realtà non risponde. È abbastanza incredibile, può essere. Comunque insultava mia mamma, parlava sempre male della mia famiglia, da quando l'ho sposato ha cambiato aggettivo, inveiva contro mia madre davanti a tutti, io piangevo e lui inveiva, sarebbe Giovanni Cottone, cioè il matrimonio, e quindi sono sposo e farò annullare tutto dalla Sacra Rota. Sono stata ingannata, così Valeria Marini. L'ho anche aiutato finanziariamente, lui era indebitato, e soprattutto questa grande accusa: non è stato consumato il matrimonio. Incredibile, vero? Ma siamo al momento della carta costa e rimaniamo sul Corriere, ma non è Valeria Marini, perché c'è di meglio o di peggio. Una pagina, mezza pagina per la verità, di Fabio Cavalera dalla Gran Bretagna, per analizzare un ritratto di Tony Blair. Ma io non ci potevo credere, sì. Blue jeans e Irlanda del Nord. Cosa rivela il ritratto di Blair? Blair si è fatto fare un ritratto. E dalle mani in tasca, il giubbetto coi jeans, lo sguardo fiero, l'essere ripreso al lavoro, si capisce com'è Tony. Ma che cosa si capisce? Si capisce che la carta costa, cari ascoltatori, mezza pagina del Corriere per analizzare il ritratto di Tony Blair. Andiamo al giornale radio, va, che è meglio. 4 mattino. Siamo qui, sono le 8 e 17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Cari ascoltatori, vogliamo anche oggi partire parlando di quelle che sono le violenze ai dintorni dell'Olimpico, la scorsa partita di finale di Coppa Italia. Perché ma insomma, quando si assiste a questi dibattiti italiani francamente c'è un po' da rimanere basiti, no? Lo schema è il solito, trito e ritrito, le cose, i problemi si sanno, si conoscono, nessuno ne parla finché succede una tragedia, poi se ne parla con annunci, con ora basta, proposte, iniziative, poi il timore, si spera che non sia così, è che tra 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni non se ne parli più fino alla prossima situazione di emergenza. Per esempio, si è sentito dire DASPO a vita. Il DASPO è il provvedimento per vietare le manifestazioni sportive violenti, ma forse c'è già questo DASPO a vita, semplicemente non si applica. Si dice tolleranza zero, ma si scopre che in molti capi delle curve sono conosciuti, nomi, cognomi, fedine penali ben note, e allora perché non si fa prima qualcosa? Si dice le società recidano i rapporti con questi ultraviolenti, le società negano i rapporti con gli ultraviolenti, ma poi se è vero così, allora perché bisogna andare prima di una partita andare a spiegare al capo in quel momento della curva, diventato celebre come Jenny Caronia, la situazione prima di iniziare una partita, se non ci devono essere rapporti? E invece pare che abbiano preteso che il capitano del Napoli si presentasse sotto la curva. Insomma, davvero non si può fare qualcosa di incisivo, davvero non si può fare nulla, come fanno per esempio negli altri paesi, davvero non c'è lo strumento per contrastare questo tipo di violenza. Ne vogliamo parlare con un uomo intanto che da tanti anni segue questo settore all'interno della polizia, specificatamente è Maurizio Marinelli, che è direttore del Centro Studi di Sicurezza Pubblica della Polizia di Stato. Lo saluto, buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Così come voglio salutare Marisa Grasso Raciti, che è la vedova dell'ispettore capo Filippo Raciti. Buongiorno signora Marisa. Morto e ucciso il 2 febbraio 2007 durante gli scontri di Catania-Palermo. Intanto vorrei partire proprio da lei, signora Marisa. Io devo dire una cosa: in questi giorni è diventato più un simbolo quello che è diventato celebre, conosciuto come Jenny Caronia, che ha esposto questa maglietta, che ovviamente le ha provocato disgusto, ribrezzo, no? Speziale, Libero Speziale è stato accusato e condannato in via definitiva per l'uccisione di suo marito. Però più lui è diventato un simbolo, più della persona che ha sparato, che questo non le ha fatto, che considerazione? No, non è solo questo che mi fa, cioè rimango sconcertata come possiamo sempre ritrovarci in queste situazioni. Oltretutto io mi sento vittima come mio marito, vittima indiretta, perché lui non riesce, non può più respirare, ha perso la vita, ma io continuo a respirare e ho continuato a vedere dal 2 febbraio quello che è successo, quindi non posso accettare e non posso continuare a vivere in una realtà del genere, una realtà surreale, però è vera, è quella che viviamo sempre. Quindi... Senta, lei, ieri c'è stata una piccola intervista a questo tifoso che dice: io non volevo mancare di rispetto alla famiglia e alla vittima, a suo marito, ma chiediamo la revisione del processo per Speziale. Questa, secondo lei, indipendentemente questo soggetto, mi scusi se l'interrompo, sì, questo soggetto non ha nessun diritto di parola in questa situazione e nessun'altra, può parlare dei suoi fatti personali. Per quanto riguarda io come persona civile colpita, ho chiesto giustizia in un'aula di tribunale, in un'altra in aula di tribunale che sono andata per 6 anni di seguito per 2 processi, perché gli assassini di mio marito sono 2. In queste, presenziando, andando in questo posto, in un'aula di tribunale, ho chiesto giustizia e ho saputo la verità. Ho visto l'operato dei colleghi di mio marito, ho visto l'operato in un tribunale, non c'è nessun dubbio, tant'è che sono stati condannati. Una volta condannati per omicidio in primo grado, condannati una seconda volta in appello, condannati per Cassazione, in Cassazione. Terzo grado. Sì, c'è da dire che sono emozionata. Le voglio anche dire che durante, in attesa di giudizio, mentre io soffrivo questo calvario giudiziario, lui aveva la piena libertà, come quest'altro soggetto, la Carogna, di poter parlare e di agire e fare quello che voleva, tant'è che continuava, l'hanno arrestato i colleghi di mio marito per spaccio di droga, lei si può anche collegare perché la sentenza l'hanno data un mese circa, un mese fa, quindi non parliamo di sante persone, parliamo di persone questo certamente, però sì, le chiedo, che non sono mai pentite, questo soggetto, la Carogna, che non è mai venuto in un'aula di tribunale, io non lo conosco, l'ho visto l'altro giorno, non ha nessun diritto, non può, non solo nessun diritto, lui non può indossare una divisa con quella scritta. Sa cosa le dico, signora? Non so se ha saputo questa notizia, che la notizia secondo me è ancora più incredibile. Questa sera c'è la partita Napoli-Cagliari di campionato, e i capi ultra del Napoli, almeno questo è uscito sulla Gazzetta dello Sport, hanno ordinato a una tipografia per questa sera di stampare 30.000 magliette con questa scritta speciale libero con la volontà. Questa comunque è la risposta che incassa lo Stato, non io, perché l'ho detto, se lo Stato fosse stato forte queste cose non sarebbero dovute accadere, quindi aspettiamoci questo, aspettiamoci altro, io mi aspetto, e purtroppo la mia paura è questa, che oltre mio marito, che avrei voluto che fosse stato l'unico sacrificio dei caduti di polizia mi sono agitata, ma purtroppo dà spazio che ci siano altri seguiti, altri Filippo Raciti, altri nomi. Ho detto questo, purtroppo lo Stato è debole, aspettiamoci di tutto. Io sono la vedova di un servitore dello Stato, sono la vedova di un uomo che di cui mi dovrei vergognare, io sono la vedova di un uomo che sono orgogliosa di essere stata sua moglie, triste di essere la sua vedova. E sono, faccio battere il suo cuore perché batta per i suoi colleghi che si ritrovano in queste situazioni. È una vergogna sentire anche questo. Ma guardi, sicuramente, alle 8 del mattino mi agito. No, ma sicuramente posso capire certamente il suo stato d'animo. Io non so, vorrei coinvolgere su questo Maurizio Marinelli. Ecco, Marinelli, poi magari analizziamo la situazione, ma è possibile, per esempio, si parla sempre dell'Inghilterra, no? Che ha un passato molto violento, con anche, conosciamo gli hooligans, con delle tragedie terribili, ma lei ha studiato anche quel modello inglese, perché lì gli inglesi da lì hanno imparato come si può contrastare questa violenza. È possibile che questa sera si entri con 30.000 magliette con questa scritta, che è una cosa che ovviamente indigna la vedova Raciti? È oltremodo vergognoso. Intanto mi permetta di salutare la signora Raciti, che conosco e quindi sicuramente è la cosa più importante, ma di fronte al fatto di una vergogna come questo, come io da poliziotto dico che è stato vergognoso quello che l'altro giorno è successo al congresso del SAP, io quindi condanno i colleghi che hanno fatto questa cosa, ma condanno in maniera forte e in maniera vistosa anche questo che accade all'interno dello stadio. Di fronte al pallone, questo è il punto, il nocciolo della questione è una sola: il pallone ha troppi diritti e pochi doveri. Io credo che di fronte a questo, e quindi rispondo alla sua domanda per quanto riguarda l'Inghilterra, c'è da dire una cosa soltanto. In Inghilterra ci sono due aspetti, al di là che io ho fatto relazione ancora 25 anni fa, perché il capo della polizia mi mandò a studiare il problema, il fronte a questo, tutti questi aspetti, il DASPO, la testa del tifoso, tutte queste cose sono state chieste ancora 25 anni fa, e ancora oggi si litiga se lo stadio deve essere di proprietà della società oppure se deve essere di proprietà dello Stato, si litiga ancora se la società devono pagare le spese dell'ordine pubblico, e ben venga adesso se questo provvedimento, ma sono tutte cose che sono state dette molti anni fa, certo. E noi per attuare queste riforme ci impieghiamo troppo tempo, e di fronte a questo, l'ultima cosa che voglio dire su questo che riguarda l'Inghilterra, il sospetto, nello stadio è stata introdotta una norma che molti giudicano incostituzionale, l'arresto indifferito entro le 36 ore, sì. Cosa vuol dire? Vuol dire che è stata introdotta una norma speciale. Di fronte a questo bisogna andare oltre, bisogna dire che chi c'è, se c'è un sospetto, anche il sospetto purtroppo bisogna colpirlo, perché nei confronti di queste persone che vanno allo stadio in questa maniera, in questo modo, sicuramente è un atteggiamento che non si può accettare. E questo, che può... questo viene fatto in Inghilterra. Però le chiedo questo, per esempio la polemica sul DASPO a vita, il ministro dell'interno ha detto, ma esiste o no già il DASPO a vita, se si vuole applicarlo, per carità? No, non esiste il DASPO a vita, perché il DASPO è un provvedimento che viene messo o dal questore o dal giudice dopo un procedimento penale. Di fronte a questo il DASPO viene introdotto e viene dato, ma c'è la possibilità di ricorrere, tutte queste cose. Il DASPO secondo me deve colpire, andrebbe a colpire, anche se per esempio siccome questa connessione per esempio di criminalità organizzata e tifoseria che si sta dimostrando ormai calzante, è stato ed è importante introdurlo anche per quando ci sono questi atteggiamenti, anche quando vengono commessi reati non attinenti allo stadio, perché noi vediamo che molto spesso lo spostamento, il bagarinaggio, il fatto dello spaccio della droga, il fatto di tutte queste situazioni che vengono introdotte dentro lo stadio in maniera molto chiara e molto lampante. Io chiedo anche questa cosa, Marinelli, perché lei conosce i capi ultra eccetera, e lei spesso dice i capi ultra lo fanno di professione, esatto, fanno guadagno, cioè come fanno, mi scusi, come fanno a stampare 30.000 magliette come stanno facendo a Napoli per questa sera con la scritta come quella di Genia Carogna, cioè Speziale Libero, cioè dove ho trovano capito, i soldi? Ma c'è la possibilità di impedire questo, come è stato c'era la possibilità di impedire che questi mettessero la maglietta, è stata una cosa che si assumono un'arroganza, una prepotenza, il capo ultra, il fatto che si metta sopra la staccionata, si metta sopra gli spuntoni che ci sono all'interno dello stadio per comandare, per gestire la tifoseria, il rapporto con il capitano, sono queste le cose che non vanno. In Inghilterra questo non sarebbe mai accaduto, perché il capo ultra gli si dice quale buone maniere, scendi, va lo steward, gli dice scendi. Se non scende arriva la polizia e pian piano lo si convince ad andare, altrimenti non si gioca la partita. Questo è il punto, di fronte a questo l'atteggiamento di questo buonismo che non va più bene. Il buonismo, signora Marisa, io ripeto, mi spiace che lei abbia preso questa notizia da noi, perché la notizia è proprio fresca e nuova. Quando è arrivata? Oggi sulla Gazzetta, guardi, io lo leggo come titolo, 30.000 magliette pro Speziale questa sera a Napoli, tifosi sfideranno lo Stato. Questa notizia però cioè che dovrebbe fare lo Stato? Dovrebbe una risposta il Presidente del Consiglio che l'ha chiamata Renzi, so che l'ha chiamata, sì, ma adesso deve dare una risposta. Guardi, possono indossarne 10.000 di risposte, io rispondo sempre con quella dignità che ho, con la vita, con la testimonianza della vita di mio marito e del mio vissuto, quindi tutto io posso rispondere a tutti i tifosi d'Italia in maniera educata e con esemplare, potrei trasmettere solo educazione e trasmettere i valori che mio marito ha lasciato, continuare a trasmettere i valori. Ma secondo lei bisognerebbe io non mi posso permettere, non sono nessuno, io mi chiamo semplicemente Marisa Grasso, non ho nessuna autorità, non posso dire cosa deve fare lo Stato. Io ho fiducia nei vertici, ho fiducia che rispondano, che diano insegnamento, che rispondano con forza, che ci diano sicurezza. Io mi aspetto una risposta, non devo rispondere io a questa gente. Però io certo, già il fatto di dire io mi aspetto che le massime autorità dello Stato a partire dal Presidente del Consiglio... Come ha saputo la notizia, quindi così come lei l'ha detta a me, allora già la notizia è arrivata a chi deve arrivare. Quindi adesso io mi aspetto una risposta. Così come quando però le chiedo, le posso chiedere, chiedere che tipo di risposta, cioè arrivare addirittura a pensare questa partita, se succede questo non si giocano, non far entrare le persone con quella maglietta, cioè lei che tipo di risposta si aspetterebbe per essere soddisfatta, chiudete, non fate giocare, basta. Uno Stato forte prende delle misure forti, non è essenziale una partita di calcio, se ne può fare anche a meno. Si evitano i problemi, ognuno si sta a casa, si evitano i problemi. Questa c'è una perdita economica, io non lo so, non è colpa mia. Questo è un tema molto dibattuto, come sai, il calcio è anche uno sport gioioso e giocoso per milioni di persone. È un lavoro che crea tanti problemi, cioè voglio dire, il lavoro deve rendere un uomo dignità, perché porta onestamente a casa dei soldi per mantenere sé e la sua famiglia. Ma poi si entra in un giro in cui veramente alcuni lavori tolgono la serenità a chi veramente svolge un servizio pericoloso, un servizio che dovrebbe dare sicurezza ai cittadini, invece si ritrova in queste situazioni. Guardi, mi dispiace sentire questa notizia di mattina, perché immagino tante famiglie come si trovano. Immagino sì. La sentiamo adesso, il telefono è andato un attimo via, ma recuperiamo la linea. Facciamo così, andiamo un attimo in pubblicità, qualche minuto, e poi riprendiamo con Marisa Grasso, appunto la vedova di Filippo Raciti, e con Maurizio Marinelli, che è il direttore del Centro Studi di Sicurezza Pubblica della Polizia di Stato. Certo, la notizia effettivamente di oggi, che rinfocola ancora le polemiche, appunto, che i tifosi del Napoli si presenteranno, almeno così si legge dai giornali, con 30.000 magliette come quella indossata da Genia Carogna, e Marisa Grasso ci sta dicendo: uno stato forte dovrebbe dire forse una partita del genere non si deve giocare. 24 mattino. Eccoci qui, siamo alle 8:38 minuti, con noi c'è Marisa Grasso, vedova dell'ispettore capo Filippo Raciti, e Maurizio Marinelli, al quale chiedo: Marinelli, lei De Santis, colui che secondo anche i test, il Messaggero scrive, il test del guanto di paraffina dice è stato lui a sparare, non ci sarebbero più dubbi, ora dobbiamo essere garantisti. Lei, Marinelli, lo conosce bene De Santis, se non sbaglio è stato arrestato in passato anche a Brescia, città dove lei... Io non lo conosco personalmente, però so dei fatti di cui si è reso protagonista. So che a Brescia il 20 novembre 1994 fu arrestato insieme ad altre persone, a Boccacci ed altri, in merito al ferimento, all'accoltellamento del vicequestore Selmin. Fu poi, quindi, credo, assolto da quella vicenda. Sì, fu assolto, però come si chiama, sono stati ritenuti responsabili i tifosi per quanto riguarda questa aggressione. Ma al di là di questo, il problema è che si è reso protagonista di altre situazioni, e lo stesso presidente Sensi, quando era ancora in vita, più volte, quando ha parlato per quanto riguarda la situazione che rappresentava, di quello che lui si era reso protagonista, e le cronache lo dicono chiaramente, i ricatti continui. Questo quello che non può essere accettato. E per quanto riguarda il discorso ancora delle magliette, io credo che la società ha un problema economico, e vediamo anche il disastro economico di ogni anno delle società, che molti non si possono più neanche iscrivere perché sono veramente alla frutta per quanto riguarda il disastro. Il bagarinaggio, e per quanto riguarda la vendita di prodotti contraffatti da parte di questi capi ultra, sono un altro business. Tutti fanno business sul calcio, è questo che non va, questo che bisogna rompere, è questo che bisogna interrompere. Io dico e sostengo che bisogna interrompere quello che riguarda questo guadagno illecito. Sì. E per quanto riguarda le società, io credo che devono pagare l'ordine pubblico e devono farci gli stadi di proprietà. Questo è ora di cambiare. Ma su questo diciamo fanno un po' orecchie da mercante, perché costa. Vorrei sentire gli ascoltatori. Domenico ci chiama da Napoli, proprio da Napoli. Domenico, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Innanzitutto massima solidarietà alla vedova Raciti. Io sono un tifoso del Napoli e ho già il biglietto per la partita di stasera. E dopo aver sentito sinceramente questa notizia, che io reputo triste, delle maglie che intendono stampare i delinquenti, perché io non li reputo tifosi, non, sinceramente vanno allo stadio a supportare la propria squadra del cuore, non vanno a fare guerriglia e non vanno allo stadio per esporre una maglia del genere, per dimostrare, per fare un braccio di ferro confronti dello Stato. Sì. Io ho deciso di strappare il biglietto e stasera sinceramente guarderò la partita a casa. Non andrò allo stadio. Guardi, ripeto, la notizia viene data come col condizionale, ma c'è una mezza pagina sulla Gazzetta dello Sport dal titolo 30.000 magliette pro speciale, i tifosi avrebbero contattato una tipografia. È chiaro che la Gazzetta stessa scrive: se venisse confermata sarebbe una notizia clamorosa, insomma un affronto proprio anche alla memoria di Filippo Raciti. Signora Marisa, insomma, Domenico da Napoli ci dice se così strapperà il biglietto. È un gesto grandissimo. non è, cioè, voglio dire, la gente vede, si è costretta a rinunciare, siamo noi sempre costretti a rinunciare, però ha detto una bellissima cosa e spero che i vertici possano ascoltare Domenico, che nel suo piccolo ha già fatto tanto attraverso questo esempio. Sì. Comunque questo speziale, che io non lo nomino mai perché mi disgusto a nominarlo, è un assassino e uno spacciatore di droga, quindi è un mercante di morte. Questo si pubblicizza. Sentiamo Gianni da Pescara, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo dire tre cose abbastanza veloci. Io sono un vecchio tifoso del Pescara e diciamo che qualche casino in giro per l'Italia l'abbiamo combinato. Io volevo dire che comunque le società di calcio molte volte sono a disposizione dei tifosi, perché li usano anche come mezzo di ricatto. Quando una società vuole mandare via un calciatore, quando una nuova società vuole subentrare e prendere il posto di un'altra società, a chi si rivolge? A questi capi tifosi, con mandando intimidazioni ai calciatori, bruciandogli le macchine. E quindi queste società sono complici molte volte di questi. Quindi lei dice non è vero quando sente dire le società non c'è nessun tipo di legame con le fasi. No, i legami ci sono, perché quando devono mandare via un calciatore, chi gliela va a bruciare la macchina? Il presidente di una squadra di calcio? Un dirigente? Capito, di una ma lei mi sta dicendo calcio? Che ne so, che a Pescara è successo che qualcuno si sia rivolto ai tifosi della società a dire passato, incendiate la macchina quel tifoso. Io non, io non le sto dicendo che si sono rivolti, però quando a Pescara sono state distrutte le macchine di alcuni calciatori, sicuramente non è stato il presidente ad andare a bruciare la macchina del calciatore. Vabbè, ma sa, quindi, anche istigare a farlo sarebbe un reato non indifferente, cioè se fosse così. Comunque, insomma, lei dice che un'unione c'è. Maurizio Marinelli, c'è un'unione tra le società e i tifosi? Fa comodo. Beh, in realtà. Mi pare confermato. Però io volevo riprendere il discorso del ragazzo napoletano che ha detto che strappa il biglietto. È proprio questo. I tifosi stessi devono estirpare i veri ultra, quelli che fanno... quello che hanno. Ma guardi, però, Marinelli, che infatti sempre meno famiglie vanno allo stadio, sempre meno, cioè in realtà che sono diventati territorio ancora di più in mano a poche frange di tifosi. In effetti è proprio questo il punto. Infatti le società non hanno capito niente, non capiscono la cosa importante, perché se intanto invece di alzare i biglietti li riducessero per le famiglie, l'Inghilterra ha fatto anche questo, ha ridotto il costo dei biglietti quando vanno le famiglie. Se c'è violenza, se ci sono gli scandali, se ci sono i disastri economici, questo è il punto. Oggi la gente è disamorata dello stadio perché preferisce starsene a casa, se lo vede in televisione, insomma, ma la società non gliene frega niente, perché la società vede e prende gli introiti dalla parte della pay TV. Quindi di fronte a questo il problema del danno economico non esiste poi se non vanno i tifosi allo stadio, ma il problema è che non è più uno spettacolo, questo è il punto. E di fronte a questo attaccamento, questo atteggiamento sbagliato di società, certamente molto spesso anche in passato, anche se non hanno fatto bruciare le macchine, hanno usato i tifosi per far cacciare un giocatore quando magari lo vogliono. Ma è chiaro che non è un atteggiamento giusto. Io vi devo salutare, vorrei solo chiedere in conclusione, e vi ringrazio a Marisa Grasso, se ha sentito da parte dello Stato, quello Stato che lei più volte ha invocato anche nella trasmissione di oggi, la solidarietà. So che sono arrivate tante telefonate dopo quello che è successo, ma ha sentito davvero, secondo lei sono state telefonate di circostanza o telefonate che ha sentito le istituzioni vicine alla famiglia? Le telefonate sono arrivate domenica, continuano ad arrivare come di tante altre famiglie che si uniscono a me, però io mi aspetto dalle famiglie colpite che hanno già sofferto, mi esprimo solidarietà, va bene l'affetto, ma dai vertici mi aspetto risposte. Potrebbe nascere una nuova legge, un decreto legge subito per queste nuove realtà difficili da gestire. Forse è una nuova forma di terrorismo e noi non riusciamo a capirla. Terrorismo da stadio, si potrebbe parlare di questo, non lo so. Comunque sia, è un problema da sconfiggere. Vuole delle risposte un po' più, come dire, ma non le vogliamo tutte. Certo. Le vogliamo tutte. certo. Non solo io. Intanto la ringrazio, grazie davvero. Marisa Grasso, vedova di Filippo Raciti, e ringrazio Maurizio Marinelli, direttore del Centro Studi di Sicurezza Pubblica della Polizia di Stato, per essere stati con noi. Dopo le informazioni sul traffico concluderemo la trasmissione con il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che è già ai nostri microfoni, è il presidente Giovanni Ardizzone. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, tra un minuto sono da lei, perché dobbiamo fare un pochino di chiarezza su quello che è uscito sui giornali, che ha fatto un po' sobbalzare tutti a dire: ma com'è possibile che Totò Cuffaro, che sta ascoltando una condanna in carcere per associazione esterna alla mafia, riceva regolarmente il vitalizio da ex deputato della regione Sicilia? Eccoci qua alle 8:49 minuti, con noi c'è il presidente dell'Assemblea regionale siciliana al Parlamento siciliano, Giovanni Ardizzone dell'UDC. Buongiorno presidente, eccoci qua. Buongiorno. Allora, so che lei è molto accalorato, non so se dire arrabbiato, per questa vicenda che è uscita di Cuffaro, che prende il vitalizio, perché lei dice: noi alla Regione Sicilia non possiamo farci nulla, le leggi sono queste, è così? Ed è proprio così, questa è una norma. Intanto io vorrei. Pronto? Sì, dica, la sentiamo bene, presidente. Sì, sì. No, intanto io vorrei precisare: ogni volta il Cuffaro viene preso di mira, viene crocifisso come il male assoluto, tutti i mali. È una persona che si sta scontando la sua pena in silenzio, a differenza di altri. Si è fatto un processo, si è presentato in galera e quindi diventa l'esempio, Cuffaro e la Sicilia, di tutti i mali d'Italia. Ecco, quindi questo lo voglio premettere a scanso di equivoci. Cosa intendo dire? Nel 2012 il Parlamento nazionale fa una legge che va sotto il nome di Decreto Monti, che prevede che per i condannati per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, peculato, concussione, sì, sì, corruzione e quant'altro, ai quali viene applicata una pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici in via, sì, perpetua, in via temporanea, fino alla riabilitazione, salva la riabilitazione, viene sospeso come ulteriore sanzione il vitalizio che era già maturato. E invece ai condannati per associazione esterna alla mafia no. Ai condannati per mafia no. Ma qual è la stranezza? Che il Parlamento nazionale, mentre legifera nei confronti dei consiglieri regionali, non legifera su se stesso. Che voglio dire? Che noi abbiamo il caso Lusi, per carità, ancora siamo ad una sentenza di primo grado, l'ex, ma noi abbiamo una della persona Margherita condannata ad 8 anni per appropriazione indebita, sì, sì. Ci sono tanti altri condannati che chiaramente non perderebbero l'assegno vitalizio. Noi abbiamo avuto in un determinato periodo storico una particolare attenzione della magistratura sul Parlamento nazionale, su quello che succedeva, e hanno spostato tutto sulle regioni. Sì. Però e mi scusi, presidente, qualcuno nel Parlamento nazionale, mi scusi, sì, si è liberato la coscienza. Però presidente Ardizzone, cioè lei ci ha spiegato il perché voi non potete, anche volendo non potreste, perché la non legge possiamo, appunto. Non possiamo farlo, c'è una sentenza della Corte Costituzionale recente del 2013 che riguarda proprio la regione Campania, sì, in questo caso, sì, che riguarda la regione Campania. Noi non possiamo estendere una sanzione che di carattere sostanzialmente penale. Va bene, e questo dal punto, questo in punta di diritto, però, ma certo, però le chiedo questo, presidente Ardizzone: a lei almeno il vitalizio a una persona che sta scontando una condanna per associazione esterna alla mafia indigna personalmente oppure no? Ma questo indigna tutti gli italiani in questo momento. Io non entro nel merito dell'indignazione, ma è facile cavalcare l'opinione pubblica in questo momento. Qua non stiamo parlando dell'indignazione. È facile dire tutti siamo indignati. Certo, ognuno di noi è indignato per tutti i tipi di reati, per carità. È chiaro che ci vuole una nuova etica nel affrontare la gestione della cosa pubblica, questo è senza dubbio. Però se noi andiamo a vedere all'origine del perché si arriva a legiferare, ci rendiamo conto che proprio il Parlamento nazionale l'ha voluta fare franca, glielo dico con la massima chiarezza. L'ha voluta fare franca, ma non è che semplicemente magari si sono distratti, cioè si sono perché dovrebbero togliere il vitalizio a chi è condannato per reati contro la pubblica amministrazione con interdizione dei pubblici uffici e lasciare farla franca a quelli, forse no, si sono sbagliati. Lo dovrebbero togliere pure a loro, lo dovrebbero appunto togliere forse loro. Si sono sbagliati, cioè non hanno messo questa tipologia. No, mi chiarisco meglio. un parlamentare nazionale che viene condannato per un reato contro la pubblica amministrazione o per un reato di mafia non perde l'assegno vitalizio. Io dico di più, va esteso ai parlamentari nazionali. Certo, certo, no, ma voglio dire, lei dice l'hanno voluta, ma questa l'incongruenza, perché questa l'incongruenza, loro hanno legiferato. Probabilmente hanno, che ne so, secondo lei non si sono sbagliati a Roma dicendo dovevamo inserire anche chi è stato condannato, per esempio, per mafia. È caduta la linea, no. Non ci sente, sì, ho sentito poi il cellulare, forse è andato. Vediamo se riusciamo a recuperarlo, però abbiamo 2 minuti, non so quanto riusciamo ad avere. E intanto la vicenda è questa, insomma, il presidente l'ex presidente della Sicilia, Totò Cuffaro, riceve un vitalizio di 6.000 euro al mese. Questo perché è suo diritto, perché ci sta spiegando Giovanni Ardizzone, presidente dell'Associazione Regionale, l'Assemblea Regionale Siciliana, hanno fatto una legge che esclude al vitalizio i reati contro la pubblica amministrazione con interdizione dei pubblici uffici, ma non i reati di associazione esterna alla mafia. E dunque dice: noi non possiamo farci nulla. Ecco, presidente, l'abbiamo recuperata, abbiamo un minuto in realtà. Sì. Lei dice, non è che a Roma hanno sbagliato forse, dovevano includere anche la mafia. No, assolutamente, credo che a Roma non abbiano assolutamente sbagliato. A Roma hanno spostato l'attenzione sulle regioni per sottrarre l'opinione pubblica nei loro confronti. Ah. Guardi, di questo ne sono più che convinto. È convinto, ma davvero c'era, non c'è nulla... Forse tante altre indagini. Va bene, mi dica per concludere... Non sono partite le indagini sulle regioni. Sì, non c'è nulla che voi possiate fare per togliere il vitalizio, nulla. Assolutamente. Assolutamente no. Noi niente. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Le dico di più, che noi essendo regione a statuto speciale potevamo pure non prevedere la sospensione dell'assegno vitalizio anche nei casi di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione, invece l'abbiamo voluto introdurre proprio in Sicilia, partendo dalla Sicilia. Vabbè, e quindi insomma, diciamo, però la vicenda è questa, cari italiani: Totò Cuffaro prende il vitalizio e non si può fare nulla, perché questo decreto Monti, che è stato recepito dalle regioni, è un decreto, come dire, incompleto da questo punto di vista. Non prevede che chi è stato condannato per associazione esterna alla mafia gli venga sospeso il vitalizio. Questo è. Allora, ci fermiamo qui, ringraziando tutti, con Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. In redazione ci sono anche Alessandro Marco Tulli e Elisabetta Fusconi. Potete scriverci a 24mattino @radio24.it o seguirmi sul profilo Twitter. Alino Milan sono io. 24 mattino è la trasmissione. Ovviamente ci sentiamo domani mattina alle 6:30. 24 mattino.